Allora, la nostra ultima serata del 2018, e chiudiamo in bellezza con un ospite d'eccezione che è il professor Dobrilla, e che ci presenta il suo ultimo libro. Vedete già qui l'immagine della copertina, Medicina insolita per non medici, volume 2. La produzione editoriale del professor Dobrilla, quella non legata alla professione esclusivamente, ma quella più divulgativa, la vedete qui sul nostro anche tavolino, l'abbiamo seguito in questi anni e ci ha accompagnato lui stesso nella crescita della biblioteca. Lo ringrazio tantissimo perché ci ha dato un notevole impulso, un entusiasmo anche per quello che è veramente la missione di una biblioteca, cioè quello di far conoscere le cose, un percorso, la verità, un'informazione corretta, sempre all'insegna dell'interesse e del bene comune. Ecco, senza inseguire falsi miraggi che possano disorientare le persone non sempre attrattive. Ecco, la biblioteca serve a questo, e soprattutto la biblioteca ha bisogno di persone che possano aiutarla in questi percorsi. E il professor Dobrilla è stato da subito e da sempre il nostro grande sostenitore e un aiuto validissimo. Io vi ringrazio di essere così numerosi, come ringrazio il nostro ospite. Non mi dilungo, avviso solamente che con sabato 22 a mezzogiorno e 30, alle 12:30 noi chiudiamo la biblioteca per una settimana, e quindi colgo l'occasione per farvi tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Poi riprenderemo col 2 gennaio le nostre consuete attività e con un programma che da metà gennaio partirà e riprenderà con le iniziative serali degli incontri con autori e autrici. Basta. Grazie alla dottoressa Trevisan, grazie a voi per essere qui. Vengo volentieri sempre in questa biblioteca perché è una biblioteca che fa cultura e con grande continuità, e per cui si parla sempre volentieri delle proprie cose, ma vi vengo con particolare piacere. Vedete il titolo, il numero 2, perché nel 2016 è uscito il primo volume. La prefazione e la postfazione sono di due persone di valore. Lui è Gerardo D'Amico, che gestisce per Rai News 24 la rubrica molto interessante che si chiama Basta la salute, e il che dice quelle cosette lì. Dobbiamo essere grati a me per questo sequel del suo primo, cioè per questo secondo libro, è un vademecum intrigante per districarsi tra verità giudiziaria e quella scientifica, perché è effettivamente così. Il professor Ricciardi, che vi do la notizia in anteprima ma è uscita già ieri, si è dimesso da presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ed è stato un punto fermo della scienza e della ricerca scientifica in Italia. È l'unico membro italiano del Board Internazionale per la Salute Pubblica. Con questo libro do un ulteriore contributo alla lotta contro l'ignoranza e la disinformazione. Fa piacere che con la policy dell'Istituto Superiore, da non confondersi con l'ISIS, che è un'altra roba, siano perfettamente sintonizzati studiosi come me che producono armi così efficaci come questo libro. Questo è stato anche il leitmotiv che mi spinge a fare le cose. Medicina e società è uno dei capitoli. Tenete conto che quello che sentirete stasera è il 10% di quanto c'è nel libro, ma evidentemente non posso fare. Allora, false certificazioni di malattia e invalidità, tratti soprattutto da considerazioni del professor Fausto Francia, che è stato fino a quest'anno presidente della società, della CITI, Società di Igiene e Profilassi. Finta malattia e invalidità è un danno socio-economico per tutti. Mandare ispettori per commissioni che superano del 10% la media nazionale potrebbe essere un'idea, perché quando ci si scosta troppo vuol dire che c'è del dolo in mezzo. Sottolinea ancora che la verifica se il paziente è in casa o no non occorrerebbe un medico, basta una persona qualsiasi, e si utilizza per medico per altri motivi, e via dicendo. Poi aggiunta, non presente nelle valutazioni di Francia, mia, furbetti del cartellino. Vedete qui un'immagine ormai famosa, tra l'altro sembra con delle mutande un po' lasche anche, clamore fugace nei media, ma poi dopo pochi giorni non se ne parla più. sanzioni per medici, dipendenti imbroglioni e dirigenti distratti riportate assai di rado. Sentiamo parlare con grande clamore di questo fatto, poi non sappiamo come va a finire, nessuno viene mai arrestato. Contro alcune considerazioni, una delle persone che ringrazio nel libro che è qui presente, la dottoressa Bonordi, ha eccepito alcune cose che io puntualmente ho messo le sue considerazioni critiche nel libro. Però sostanzialmente quel discorso lì vale. Disparità di genere in medicina, questo rivela la profonda ammirazione che ho per il sesso femminile, non solo così, ma proprio per la stima che delle persone che ho incontrato, le donne con cui ho vissuto, da mia madre in poi. Allora, il ruolo apicale delle femmine nel mondo accademico è il 12% verso il 29% dei maschi. Anche la dottoressa Trevisan è un'eccezione, perché è difficile trovare una libreria importante provinciale gestita da uomini. Supporto per far carriera. Alla donna ci viene aiutato in qualche modo pari, questo è un discorso statunitense ma di validità generale, $585,000 per le femmine contro quasi mille per i maschi. Stipendio delle dottoresse, in particolare visto che mi occupo di medicina, l'8-10% in meno, 23% in meno in Italia, meno dei maschi. Nei seguenti, i plus che ci sono invece, a confronto dei minus, sono nei seguiti da femmine, meno neo ricoveri a 30 giorni dalla dimissione, cioè se uno è seguito da una dottoressa ha meno ricoveri a 30 giorni. Nei seguiti da femmine, meno decessi a 30 giorni da ricovero. E con tutte queste caratteristiche positive, perché devono guadagnare di meno? Operati da femmine, meno 11% la probabilità di morire o di reintervento. Ambo i sessi curati da femmine, comunque, ambedue i sessi, sono più soddisfatti. E perché questo? Perché tutte le femmine sono bellissime, no? C'è anche qualche femmina non bella. Maggiore attenzione al malato, dicono che preferiscono avere il curante femmina perché c'è una maggiore attenzione al malato, maggior tempo a lui dedicato, più facile la comunicazione che con il maschio, atteggiamento più rassicurante. Quindi sono dati da riviste importanti, da Medicare, valutazioni su 811 milioni di ricoveri, quindi sono non opinioni, sono dati solidi. Vedete oggi, l'ho fatto al salto, non solo in medicina, mercato del lavoro, 19 dicembre ieri, guadagni in calo e donne penalizzate, quindi un discorso che si trascina da tempo e nonostante le denunce tipo questa che vi sto facendo, resta tutto uguale. Un secondo problema che è di interesse pratico, ecco perché è non medico, perché i medici o dovrebbero saperlo, lo sanno, forse non lo evidenziano con grande veemenza, gli esami inutili e o rischiosi, soprattutto quando sono fatti in gente che non ha sintomi o ne ha pochissimi e che hanno meno di 50 anni, un limite di età che è un clivaggio tra rischio tumorale e non rischio tumorale. Gastroscopie in pazienti che lamentano digestione difficile, che non esiste, se non rarissimamente la digestione, quello che chiamiamo digestione difficile, non è la digestione difficile, situazione rarissima e certo non è accertabile con la gastroscopia. Se anche fosse, voi con la gastroscopia non vedete la digestione difficile, vedete la mucosa dello stomaco. Colonoscopia è solo per stitichezza, senza familiarità neoplastica specifica o sintomi di allarme associati, specie in giovani. È ridicolo che uno stitico che non ha fattori di rischio si sottoponga a una colonoscopia che può essere fatta anche bene, ma non è un gelato da crema. Fare poi la TAC e PET, specie se la diagnosi è già ottenuta con esami senza rilevante rischio radiologico. Tenete conto che la PET no, ma la TAC sì, ha un rilevante rischio radiologico. Vi faccio un esempio banale che è occorso anche nella mia lunga esperienza. Calcoli, disturbi fanno sospettare dei calcoli colicistici, viene fatta un'ecografia il cui rischio radiologico è zero, si vedono bene queste due patacchette qui che sono i calcoli che fanno questo famoso, in medichese si chiama cono d'ombra, rappresenta di due calcoli abbastanza grossi col cono d'ombra, il rischio radiologico zero, la diagnosi è fatta. C'è tanta gente, tanti pazienti, qualche medico che non contrasta a sufficienza la cosa, che si vuole fare l'attacco per controllare questo. L'attacco, anche ancora più perfezionata di oggi, ha un rischio radiologico pari a 300 radiografie del torace. È come dire, uno ti fa una radiografia del torace al giorno per 300 giorni. Ma che senso ha correre questo rischio quando la diagnosi è dolore? Infatti, non approfondire con ulteriori visite ed esami se la diagnosi è stata già fatta. Questo ricordiamocelo tutti. Eviteremo seccature, eviteremo spesa sociosanitaria. Questa ci tengo molto, perché fra il mio rispetto per le donne in genere c'è un rispetto particolare per gli infermieri, anche per gli infermieri maschi, ma la prevalenza sono gli infermieri femmine. C'è una giornata, nata nel 1992, il 12 maggio, che è per rispettare come giornata di ricordo per gli infermieri. Ci dimentichiamo che gli infermieri non sono più bassa manovalanza, che hanno una laurea breve dopo 3 anni, che è piuttosto consistente, che hanno mansioni e competenze mediche, e esiste anche le quasi decisioni, di cui ho scritto qualche volta sul giornale, che si chiamano proprio così, le quasi decisioni, un qualche cosa che devono sentire anche l'avallo del medico, ma che possono già prendersi da sole. Quindi sono un po' indipendenti e un po' dipendenti, ma il loro apporto è assolutamente importante. Teniamo conto che l'assistenza è preziosa, anche se poco appariscente. Il conforto quotidiano del paziente e ai congiunti non viene dal medico, viene dall'infermiere. Naturalmente, come in tutte le categorie, c'è anche l'infermiere antipatico, scorbutico, eccetera. Questo vale per i giornalisti, vale per i sacerdoti, vale per tutti. Risposte a quesiti che spetterebbero ai dottori, che purtroppo sono destinate loro a dare, perché i dottori sono superficiali, passano, non rispondono dei quesiti, e sono loro che confortano. L'assistenza fisica del malato non autosufficiente. Non entro in particolari un po' così pesanti, ma immaginate una persona che pesa 120 kg che se ne fa addosso per pulire questa persona e cambiare le lenzuola. Ci vuole una forza erculea, resistenza, una condizione morale di fare qualcosa di bene, perché è impressionante vedere cosa comporta semplicemente il cambio delle lenzuola in un così. Oltre che gli infermieri, questa sigla qui corrisponde anche agli assistenti sanitari e alla vigilatrice d'infanzia. Sta signora qua ha un grande merito, perché nella guerra di Crimea la chiamavano la signora con la lampada. Ha dato tutta la sua vita per assistere i feriti con malattie belliche, e anche di notte, quando i medici andavano a dormire, questa si armava di una lampada a gas e andava nelle corsie a vedere per poter essere ancora di aiuto, ed è stata nominata la signora della lampada, la signora con la lampada. Ho vissuto 90 anni. Medici, eh sì, giusto, adatto. I medici e pena di morte. Ora, è chiaro che una contraddizione in termini, come direbbe il mio amico Arnaldo Lona, a cui voglio un gran bene, che è qui davanti in prima fila, perché non va alla spese, quando va in un posto si prende la prima fila. Com'è possibile conciliare la funzione del medico, che è fatta per non far soffrire e possibilmente non far morire, con la pena di morte? È incompatibile. Tant'è vero che negli Stati Uniti l'ordine già da anni ha dato una disposizione severa che nessun medico iscritto all'ordine può partecipare alle esecuzioni capitali. Parte degli Stati, negli Stati Uniti, parte degli Stati l'hanno abolita, parte non l'ha abolita, ma quelli che non l'hanno abolita fanno fatica a trovare anche le armi per accorpare la gente, perché le dite più sensibili oppure paurose di contenziosi o di fare una brutta figura legale non vendono più a quei carceri le medicine che servono per ammazzare. Per cui questi si devono arrangiare comprando l'anestetico di contrabbando, lo fanno arrivare in rete, eccetera. Per cui assistiamo ad alcune scene non frequentissime, ma neanche rarissime, del malato che proprio non vuole morire, il malato che ha preso dei farmaci letali e dei gas, eccetera, che continua ad agitarsi sulla scena con scene veramente orripilanti. Poi il modo per morire ce n'è una sfilza, come vedete, più o meno raffinata, dalla crocifissione all'impiccagione, alla sedia elettrica, alla decapitazione. Allora, in USA è ancora vigente in 31 di 50 stati, in Russia, Cina, India e Giappone, più di 17 altri paesi asiatici, 26 stati islamici africani, in Oceania 5 paesi. È stata abolita nella più civile Europa, ma soltanto dal 1997, che non è 2 secoli fa. tranne che in Bielorussia e Cipro Nord, che ce l'ha ancora, lo Stato del Vaticano l'ha abolita nel 1969, benché da parecchi anni non la realizzava. È cancellata dalla legge ecclesiastica soltanto nel 2001, quindi la Chiesa l'ha abolita in maniera precisa soltanto dal 2001, che sono pochi anni fa. America nel suo senso, il divieto ai medici è quello che ho detto prima. Questo peggiorato perché non riescono a procurarsi farmaci per indurre la morte se sono usati i farmaci, quindi per indicare non occorrono farmaci. Ultimi giorni di vita, problema toccante, soprattutto alle persone che hanno superato, adesso l'anzianità comincia a 75, io sono già anziano comunque, ho superato questo limite, però più ci si avvicina alla reiterazione più il problema si pone. Di solito è difficile, è raro che uno muoia vecchio in salute perfetta, di solito muoia dopo sofferenza. Allora, il problema di dove morire? Scelte individuali variabili, ovviamente, anche scelte mediche variabili. Da Stato a Stato è variabile negli Stati Uniti e in Italia è molto diverse variabili tra il Nord e il Sud, perché questo dipende da una Weltanschauung generale, da quello che pensiamo, eccetera. Tradizione e cultura incidono, la storia clinica, il censo, l'ambiente domiciliare, è come gli arresti domiciliari. Un povero cane viene messo agli arresti domiciliari, va in un mini appartamento dove sono 5 persone, va un grande miliardario agli arresti domiciliari e va in un arresto dove può fare tutto. Uguale anche questo, la distanza a casa ospedale. Un conto è lasciare un congiunto in ospedale, tu attraversi la strada vai, un conto è che se l'ospedale è a 200 km di distanza, e tutti i fattori che incidono. In media l'86% delle persone preferisce morire a casa, anche se l'assistenza in ospedale fosse migliore. Morire meglio verso vivere di più, ma morire peggio. Il crociato per terra direi non saprei, perché questo non è neanche il bisogno di scegliere o la possibilità di scegliere. Questa è un'inchiesta fatta da New England Journal of Medicine, che è una mecca nella medicina, nei loro ultimi 180 giorni di vita. Quindi molto dipende dalla situazione individuale. Malattie strane. Testini doc e lui dice: Laura, il dottor mi ha trovato la malattia delle onge gialle. E lei dice: questa qua non l'avevo mai sentita, Gigi, che non te mi infetti il piccio. Le unghie gialle sono queste. Malattia rara, come vedete, 50 persone in Italia all'anno. Disturbo raro e orfano. Perché orfano? Perché non si guadagna molto per chiarire il perché e non si guadagna molto per creare medicina per curarla. Elementi costitutivi: l'unghia grigio giallastra incurvata, linfedema gonfiore intorno nel 30-80%, tosse persistente che in qualche modo rivela che la malattia c'è, un qualche cosa che non riguarda solo le unghie, e nel 60-70%. Le cause ipotizzate sono tante, l'unica roba che va sottolineata e tirata via, non c'entra il fegato, perché il fegato del bersaglio sarà il fegato, il giallo, il fegato non c'entra assolutamente niente, questa è l'unica certezza, per il resto sperare nel 30% della guarigione spontanea, 100% naturalmente se si trova una causa scatenante, ma se non si trova il 30% per fortuna guarisce da solo. Si danno allora a occhio, a usma, vitamine, sintomatici, linfodenaggio, oppure si aspetta sperando di cascare in quel 30% che guarisce da solo. La polimialgia reumatica, anche questa è una malattia tormentosa perché ce l'ha, non è frequentissima ma neanche rarissima, male dappertutto, senza casi, 600 casi su 100.000 ultra sessantenni, non su 100.000 abitanti, perché se fosse su 100.000 abitanti noi avremmo, come bacino d'utenza di Bolzano, avremmo 600 malati, cosa che non è, negli ultra sessantenni. Sintomi improvvisi, non sono specifici, sono dolori articolari soprattutto a risveglio bilaterali, con stanchezza, inappetenza, calo di peso. Abnorme reattività immunitaria sospettata, sospettato anche un substrato genetico, fattori ormonali, ma di fatto non si sa perché. Diagnosi di esclusione è importante, bisogna escludere che questa sia una malattia reumatica, artro-reumatica. e questi test devono essere negativi. Se sono negativi, la diagnosi è convalidata, ma resta soltanto il solito cortisone, che ha un'efficacia però più o meno rapida e molto diversa da individuo a individuo. L'arterite di Holgren è questa: arterie temporali, molto evidenti, fa male a toccarle, fa male a toccarsi il cuoio capelluto, ma non sarebbe niente questo, se non che il rischio in questi malati di sviluppare una ditasia, un aneurisma aortico è elevato. Per cui una volta anche guarita questa con cortisone, sarebbe bene, la gente poi se ne rimedia, quando sta bene non si fa quello che dovrebbe fare un periodo di controllo con un attacco dominante per vedere come si comporta l'aorta. I non trattati, vedete, se non vengono trattati, e il trattamento può essere efficace anche a breve e poi si molla, se non vengono trattati si va incontro a cecità, all'aneurisma che vi ho già detto e anche all'ictus. Cura cortisone efficacia più o meno rapida, però il monitoraggio è essenziale. Le biopsie per far diagnosi sicura e non a occhio, bisogna fare la biopsia delle arterie, e questa biopsia delle arterie dimostra la presenza di cellule giganti tipiche che consentono una diagnosi di certezza. Ecco qui, lo metto, stanco, che sbuffa, fatica cronica, non è una malattia degli sfaticati, cioè, certamente ci sono degli sfaticati che sono sempre stanchi e non hanno voglia di fare nulla, ma la malattia, questa è una malattia vera, neuroendocrina, la malattia 0,5-1%, spesso a seguito di infezioni, prevale in 30-40enni e nelle femmine rispetto ai maschi. I requisiti sono quelli della stanchezza che prima o dopo abbiamo conosciuto tutti in qualche momento, una stanchezza che è mentale e fisica e si sfinisce rapidamente, il recupero è molto lento, fa male un po' tutto, il sonno non è ristoratore, c'è un'intolleranza ortostatica e sintomi pseudo-influenzali, quindi il massimo della vaghezza. Però cosa succede? Succede che il recente riscontro in questi pazienti di mini foci infiammatori nel cervello e nel midollo allungato e spinale e presenza di citochine e linfociti T, che non ha importanza che adesso vi spieghi cosa sono, ma sono espressione di florosi, espressione di infiammazione, coinvolti nelle reazioni immunitarie. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha proposto il termine per questa malattia: disgregazione del sistema nervoso centrale e del sistema immunitario. Ci sono cure di certa efficacia e si va un po' a testoni. Quindi non pensiamo di giudicare solo uno che non vuole di fare niente come uno fannullone, perché potrebbe avere questa sindrome ben chiara. Sindrome delle gambe senza riposo, più frequente, senza gravità, ma vi assicuro, anche perché ho degli amici abbastanza cari che ne soffrono, è molto fastidiosa e avviene soprattutto nelle ore notturne e quando siamo sdraiati. La esigenza di muovere vistosamente i propri arti inferiori, tanto che uno senza darne l'occhio si alza, se gli succede a cena, per esempio dopo un'ora che c'è un convivio, lui sta seduto a cena per un paio d'ore, deve alzarsi improvvisamente e tutti pensano che la prostata debba far pipì, invece si alza perché ha la sindrome delle gambe senza riposo. Alterata acquisizione di ferro, ipotetica, in certi neuroni sottocorticali, deficitario rilascio di dopamina, che è l'ormone dell'appagamento, l'ormone dell'euforia, aumentato livello di glutammato nel talamo, insomma anche addirittura la possibilità che c'entri un gene che vedete qui, questa è una scoperta italiana, ma è talmente strana questa cosa che l'utilità di dare dopamina, di cui si suppone la carenza, è contraddittoria, perché talora si hanno benefici sia da agonisti che simulano l'attività di dopamina, sia da antagonisti che si oppongono alla dopamina. Allora voi capite che questo ci impedisce una conclusione. Il solito triestino dice: in definitiva non si sa niente. Stessa ipotesi della dopamina vale per il Parkinson, è stata avanzata per la fibromialgia, per la irrequietezza dei bambini, per la bocca cattiva, la bocca orrenda. Curiosità più che giustificata. Non viene trattato, ecco perché è insolita per non medici, non viene mai trattato questo problema, che siccome gli infarti sono diventati più frequenti nei giovani, perché c'è una maggiore tendenza alla sportività, alla palestra, eccetera, intervengono anche, muoiono anche dei calciatori in campo, insomma, o per infarto o per rottura del cuore. A sto punto qui il problema se capita il l'infarto a 85-90 anni, non importando, uno a 40-50 anni ha ancora 20-30 anni di aspettanza di vita. E come si comporta dal punto di vista sessuale? È un problema individuale molto preciso, per alcuni è molto importante questo aspetto, per altri non lo è, evidente, ma per quelli per cui è importante, chi gli dice cosa fare? Lui e soprattutto lei si vergognano di chiedere al medico. Il medico fa il possibile per non essere impegnato in questa cosa un po' pruriginosa, e oltretutto perché il medico quale medico dovrebbe saperne qualche cosa? Ci saranno pochi medici specializzati anche dal punto di vista psicologico per affrontare il problema. Per il resto, quindi, è un problema che non si affronta. Eventuali consigli di significato fumoso. Guardate che importanza possono avere i consigli uno all'infarto a 45 anni. Limitare l'attività. Nel 35% di casi viene consigliato di limitare l'attività. Ma cosa vuol dire limitare l'attività? Assumere un ruolo passivo. Nel 26% viene dato questo consiglio. Assumere un ruolo passivo. Tenere bassa la frequenza cardiaca. Mi dite voi, cominciate a fare l'amore e vi mettete un pulsometro per vedere il latino. Cioè, oltretutto non viene chiesto, e i consigli che vengono dati in maniera parcellare sono consigli così fumosi che non servono assolutamente a niente. Fattori pre-infarto. Ed è interessante questo, perché anche questo non emerge nella normale visita medica, come se la sessualità fosse un particolare irrisorio della nostra vita, ma la sessualità è un elemento fondamentale della nostra vita, si fanno guerre per la sessualità. Allora, già un anno prima dell'infarto, in quelli che hanno avuto, hanno fatto la valutazione, eccetera, eccetera, il calo di interesse sessuale, secchezza vaginale e dispnea durante l'atto sessuale sono presenti nel 36, 22, 19%. Diciamo, facciamo una media, 1 su 4 ha qualche difficoltà già prima di avere l'infarto. Ora, in questi individui, avere l'infarto non può che peggiorare enormemente la situazione, perché si aggiunge una quota psicologica. E eiaculatio precox, insufficienza erettile e dispnea in 22, 20, 18, anche qui 1 su 5 ha questi problemi. Non li ha affrontati prima, si immagina quanto peso hanno psicologicamente dopo l'infarto. Questa è una roba molto interessante, perché è sempre più frequente di accertamento. E quando non viene dato poi il foglietto con questo grafico e c'è scritto solo la cardiopatia o i numeretti in percentuale, il paziente giustamente non sa interpretarli bene, e la gammapatia monoclonale, che spesso ha aggiunto questo attributo, benigna. In verde vedete il tracciato elettroforetico delle proteine o protidogramma normale. Vedete così, le basi, le cuspidi sono delle varie tipi, l'albumina, l'alfa 1, l'alfa 2, beta globulina, la gamma globulina, in un soggetto normale. A un certo punto uno di queste cuspidi diventa a base di impianto molto stretta ed è molto alta. Questo significa che il nostro midollo produce linfociti specifici di una famiglia sola. E questo crea un campanello d'allarme, anche se chiamata benigno, perché molti anni dopo si sviluppano, aumenta notevolmente il rischio di una patologia neoplastica o paraneoplastica importante. Come vedete scritto qua, è asintomatica, può anche andarsene via da sola, causa ignota, decorso benigno asintomatico per decenni o addirittura per sempre. Io ho qualche amica, un'amica milanese, la cito perché l'ho sentita oggi, che mi viene in mente prima, che ha avuto una diagnosi di gammapatia 30 anni fa, adesso ha raggiunto quasi 70 anni e altri problemi, ma non questi. Decorso benigno asintomatico, possibile sviluppo di patologia importante, però nel 17% dopo 10 anni e nel 30% dopo 25 anni. Quando si manifesta la malattia di cui è rischio, questa malattia è grave, perché quasi sempre è tumorale. Sigarette elettroniche, problema da bar sport, da parrucchiere, solo business o qualcosa di più? Allora, c'è ancora controversia, lo diciamo subito, la verità non è mai nitida e netta sempre, però questo è un punto di partenza direi piuttosto buono, perché deriva da un forum internazionale delle società, di varie società di malattie respiratorie e dell'America Heart Association, convogliate, sintetizzate nel No Tobacco Day, giornata senza tabacco. Bene. Queste sono le conclusioni 2018, ripeto, ci sono anche controversie, ma penso che questo sia più pesante. Mancano prove adeguate di maggiore sicurezza verso le sigarette combustibili. quelle la nicotina vanno normate come un prodotto di tabacco, ai giovani dovrebbero essere vietati in tutti i paesi e vietati i distributori automatici, perché nel distributore automatico qualsiasi persona giovane si dà. La pubblicità delle sigarette dovrebbe essere vietata, come vietata quella delle sigarette. Stop ad aromi favorenti l'iniziazione giovanile, sono aromi accattivanti, nicotina, mentolo, chiodi di garofano, cannella, vanillina, acetaldeide, etulene, eccetera, eccetera. Divieto severo, specie in luoghi chiusi frequentati da giovani, da approfondire l'impatto specialmente sul polmone, sul cuore, vasi e cervello. La sorveglianza dei divieti e dei danni andrebbe estesa a tutti i paesi. Siamo lontani da questa ragionevolezza. Se domani si dimostrasse che fanno del bene, cambierebbe idea, ma sulla base dei dati oggi a disposizione di tutte le società di pneumologia bisogna accettare queste conclusioni. Altro problema banale, ma non banale per chi soffre di questo problema, di questa questione, è l'applicazione del sacchetto sulla pancia dopo un'operazione sull'intestino. La preoccupazione della malattia, la preoccupazione dei familiari è già angosciosa per conto sua, poi l'idea di guarire a prezzo di portarsi addosso un sacchetto che si riempie di cacca durante la giornata diventa una cosa angosciante. A meno che non si spieghi bene i vantaggi e a meno che non si insegni bene a trattare questo aspetto. E questo aspetto non è sempre chiaramente trattato. Si deve capire che l'astomia, perché il sacchetto o l'ano preternaturale in termini medichesi si chiama astomia, è priva di valvola, quindi è impossibile controllare l'uscita fecale. Doverosa preinformazione e consenso, è impensabile, salvo situazione di urgenza che deve salvare la vita, è impensabile che un soggetto venga sottoposto a questa applicazione senza essere avvertito prima. Credo che l'avvocato Lone sarà super entusiasta di questa affermazione. Le istruzioni devono essere cruciali, non dopo vedrà che va tutto bene, no, si deve insegnare quante volte deve essere cambiato, come va disinfettato, cioè, e quindi bisogna che il paziente o il suo parente acquisisca questo. Disagio comunque risveglio, pur dopo aver dato il consenso, ma la qualità di vita sorprendentemente gratificante nella maggioranza. Anche per mia esperienza, uno che ha nicchiato mille volte di questo, poi si trova alla scomparsa di una sofferenza che l'ha tormentato per anni e sopporta meglio questa droga. Purtroppo il grave è drammatico nello stomizzato single, che non ha, solitamente un poveraccio, che non ha nessun tipo di assistenza, perché allora questo diventa un dramma. Trasfusioni, anche questo un po' sull'ironico, il sangue giovane, sangue fresco, non sangue fresco, c'è qui il dottor Fabris, esperto ematologo, che non ha sicuramente problemi di, non si pone questo problema. Comunque ci sono dei pregiudizi che hanno influenzato. Ovidio nel Metamorfosi narra di Pelea che crede di rinvigorire col sangue fresco datogli da Medea. Nel Plinio il Vecchio dice i benefici in chi beve il sangue di gladiatori morenti. Uno correva lì, gladiatore morente, e si prendeva sto sangue. Allora, 6 ospedali negli Stati Uniti, migliaia di pazienti, 6.000, quasi 7.000 trasfusi con sangue conservato da 13 giorni, quasi 15.000 con sangue conservato da 23 giorni. Il tasso di mortalità in pazienti sottoposti a cardiochirurgia, terapia intensiva, tumorali con grave anemia, sintonia, insomma malattie importanti, se no non si trasfonde, bene, la mortalità è praticamente sovrapponibile sia che il sangue sia fresco, sia che non sia fresco. Ve lo salto per non far tardi, notizie che male non fanno. Ah, che bella cosa sapere qualcosa, dice Molière, il borghese gentiluomo. Questa è una notizia che è passata stranamente sotto silenzio. Ho trovato delle cretinate, stavo per dire una brutta parola. Questa è una notizia che non si trova quasi più, o se è stata data non viene ribadita in maniera precisa. Il rapporto, a parte altri fattori di rischio, quindi pulita da altri fattori di rischio, il movimento riduce fortemente il rischio tumorale, ma non di poco, di tanto. Esofago meno 42% di rischio, fegato meno 27, rene meno 23, cardio 22, endometrio 21, eccetera. L'unico che non beneficia è il tumore della prostata, non si sa perché, non ve lo so dire perché. modifiche metaboliche, probabilmente ormonali durante il movimento, psicologiche. Uno se corre si sente anche bene, se non sta tanto bene non va neanche in testa, eccetera. Valutazioni aleatorie. Ma perché il silenzio di media verso clamore per tante robe? Obiezioni per questo, la promozione di farmaci assolutamente inutili, eccetera. Su questo siamo pieni di pubblicità, e su questa notizia che insiste qui in sala conosco parecchia gente che fa molto movimento e fa bene a farlo, e non giocando soltanto sull'introito alimentare. E quindi ricordiamoci che è terribile che l'informazione pubblica lasci perdere questa notizia a vantaggio di altre sciocchezze pure. Informarsi sulla salute è una cosa assolutamente buona, non dobbiamo diventare tutti dottori. Un po' di attenzione, come quando ci compriamo una camicia, vogliamo che le maniche siano lunghe a giù o che il collo si chiuda bene. Però bisogna verificare i siti che andiamo a consultare, e più di 10 milioni di italiani lo fanno. Io ho preso questo da un istituto prestigioso nel mondo, che è l'Istituto Mario Negri. Vi do la notizia che da quest'anno Silvio Garattini non è più il dirigente del Mario Negri, ha passato la mano, ha quasi 90 anni, è uno dei grandi vecchi, compreso Piero Angela, e ha passato la staffetta a Beppe Remuzzi, che dirige il Mario Negri della sede di Bergamo. Per essere sicuri non basta leggere una roba e capire quello che dice, bisogna verificare la fonte. Perché se io vi do un consiglio sul pancreas, credo, pretendo che di essere creduto meglio del consiglio sul pancreas che mi dà chi vende i giornali, con tutto il rispetto di chi vende i giornali, ma fa un altro mestiere. E invece in rete trovate, non sapete chi l'ha detto. Allora, il decalogo, quasi decalogo, che vi dà il Negri è questo: identificare l'autore, le competenze dell'autore che ha detto quella cosa e il luogo di lavoro. È chiaro che se uno lavora alla università celebre, famosa degli Stati Uniti, si firma e dice una roba, un certo peso lo devo accettare. Verificare se la fonte è unica o se ci sono conferme da news analoghe. Altre conferme di altre autorevoli persone di sedi rispettabili dicono la stessa cosa. Diffidare di opinioni personali, anche delle mie, specie senza bibliografia. Se io vi dico una roba, poi vi dico, se volete approfondire, vi do un riferimento bibliografico, voi andate a approfondire quello che vi ho detto, se vi ho detto baggianate o meno. Sfruttare link che consentono di attingere alle fonti originali. Il passaparola va a finire che tra la raccomandazione iniziale e quello che arriva al passaporto dal parrucchiere è completamente diverso. Escludere conflitti di interesse, che sono enormi, perché far passare un certo tipo di discorso sull'acido ialuronico, voi capite che ha un impatto commerciale incredibile, perché si parla di miliardi di introiti o di integratori particolari. Escludere data di pubblicazione, si fa una notizia che magari è stata già data 40 anni fa, ma non si cita più che l'origine è nata 40 anni fa e è stata screditata negli anni successivi, e via. Se commenti dei lettori, che ci siano tutti, perché qualche volta l'astuzia di chi fa la news è che sotto mette dei commenti che sono di solito favorevoli all'informazione che viene data, però ci sono altre 10 messaggi fatti da altri che dicono esattamente l'opposto. Ora la furbizia è quella di depennare quella qui sotto e dare soltanto il favorevole. Razza, razzismo, etnie, vedo un attimino, merita una considerazione che piacerà molto all'avvocato Lone. Tendenza più o meno occulta a considerare la ariana una razza superiore. In Africa l'Ussi, un ominide di 3.250.000 anni fa, scoperta nel 74. 200.000 anni fa l'uomo diventa, nel nostro decretato, sapiens. Questo DNA dell'Homo sapiens è identico in tutti i popoli attuali, identico. Che abbiano gli occhi a mandorla, il colore bianco, pelo. Differenze esteriori sono frutto di lentissimo ambientale. Einstein negli Stati Uniti, quando gli hanno richiesto la razza ebraica, e lui ha risposto no, razza umana. Non ha fatto scuola e qualcuno non era della stessa idea. Voi vedete la difesa della razza, 38, questo uomo bianco col naso romano da imperatore romano, razza superiore, questo infido ebreo col naso un po' così, è l'inferiore decisamente, quello con la pelle nera, da cui deriviamo tutti. Parere personale è questo. qualche volta si confonde razza con etnia. Ci sono delle etnie che con lo stesso DNA hanno sviluppato delle regole vitali per me inaccettabili, che non dovrebbero sedere all'ONU. Quali sono? Quelli che considerano la donna una schiava, che sia bianco, nero, rosso o giallo. L'importante è che inaccettabile se considero la donna una schiava da adoperare, tipica frase veneta, femmina vien qua che te adopero, che è una roba orrenda, no? Le negano lo studio, il voto, la politica e la guida, le negano la libertà di sposarsi per amore, le negano il piacere sessuale praticando l'infibulazione, che è ancora presente in Egitto, in Somalia e in altri paesi islamici, pure nei copti ortodossi. Nel Niger il 50% tra i cristiani la pratica e il 5% tra le musulmane. Allora, questa è una mia assoluta riflessione spontanea, all'ONU dovrebbero sedere solo le etnie, non le razze, che hanno aderito, rispettandola concretamente, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani di Parigi del 48, ma pecunia non mole, per cui voi trovate accanto al presidente, non so come si chiama, dell'Arabia Saudita, dove si fanno tutte queste cose, lo trovate seduto accanto a presidenti di nazioni civili. Medicina irrazionale e gli antivaccino. Questa è una bellissima acquaforte acqua tinta di Goya, e il sonno della ragione produce mostri. E non ce lo dobbiamo dimenticare in tutti i campi, non soltanto in medicina. Qui vedete una figura di un padre e un figlio, il figlio sono io, questo mio padre, si chiamava Giorgio Dobrilla, anche lui, era l'anno, mi dicono, nel 35 il fascismo ha proibito che padre e figlio si chiamassimo con lo stesso nome, invece io mi chiamo ancora Giorgio Dobrilla e mio padre si chiamava Giorgio Dobrilla. E quando le dicevo, papà, quando è che devo credere alle cose? E lui mi rispondeva, quando ti dimostrano che sono vere, che mi sembra la parisiano, ma mi ha convinto già da allora. Nel capitolo medicina irrazionale, qualche cenno a tutte queste cose di cui non ho tempo di parlare, vi dirò soltanto due cose ancora. Questa cosa, perché è recente, dell'apipuntura, morto per apipuntura, e qualcosa sui vaccini che mi sembra obbligatorio. Allora, nozioni comuni: con la puntura di una o più api possono avere, possono provocare conseguenze locali, dolore, edema, prurito, bruciore, generali, malore di spina, di rado mortali, shock anafilattico, anche dopo una sola puntura. Da secoli in Asia c'è questa terapia con apipuntura, come se le cose millenarie dovessero ipso facto essere efficaci e documentate, per malattie serie che oggi sono note come sclerosi multipla, atrofia muscolare progressiva, la malattia che ha portato a morte un grande genio di cui sicuramente il mondo ne sente la mancanza, che è lo Stephen Hawking, Parkinson, dolore da cancro. In Spagna 2018, non mille anni fa, 2000 anni fa, donna di 55 anni con poliartralgie, quelle che abbiamo nominato prima come malattia strana, muore in ambulatorio dopo terapia con apivive, pressione prolungata del terapeuta con 24, non 23, 24 api su aree cutanee del corpo della paziente, fino all'espulsione del pungiglione che ha già inoculato le sostanze lesive che sono scritte qua sotto. Evento possibile anche se assente in sedute precedenti. Questa signora era già stata trattata in precedente e non era successo, stavolta è morta. Da notare senza nessuna documentazione che spieghi perché dovrebbe far bene o no. Se uno se la gassa il ca, si direbbe in dialetto. Le preoccupazioni dei Novax, di cui si oppongono i vaccini, sono spesso trattate da qualche ricercatore con supponenza e con ironia, e non va bene. Alle persone bisogna spiegare, non bisogna avere la puzza sotto il naso. Quindi non vanno trattati male, va conversato in maniera corretta, va spiegato e dopo ciascuno farà le sue scelte. Ciò detto, ricordiamoci prudenzialmente la riflessione del genio già citato: il più grande nemico del sapere non è l'ignoranza, ma è l'illusione di sapere, perché questo è veramente drammatico. La vignetta che devo all'amicizia con Frangipane, che come sempre è stupenda perché dice tutto in niente, con niente, il virus che tenta di entrare nel corpo e il vaccino viene bloccato e il vaccino blocca questa entrata da parte di chi possiede il vaccino. Ci sono molte pubblicazioni, perché non parla di cui non parlerò stasera, che se uno si vuole documentare si può documentare, ma quella che mi interessa citarvi di più è una, questa perché questo che è supponente è molto bravo, ma io non lo sopporto perché è supponente, che ha scritto, però ha fatto una battuta ironica, è stato accusato di parlare dei Novax come della congiura dei somari, e lui ha risposto: ma somari non è un'offesa, è una diagnosi. Quello che volevo segnalarvi è questo: questo è uno dei 100 ricercatori più importanti attualmente nel mondo, un giovane di 30 anni che vive e insegna in Svizzera, ma è di Bergamo, per cosa là, che io ho conosciuto, eccetera, che ha scritto una roba molto importante, un libretto molto importante, non a favore o contro i vaccini, ha solo descritto con basi storiografiche precise cos'era il mondo senza i vaccini. Uno se lo legge può fare le sue idee. Allora, le vaccinazioni per legge, come sapete, del 220 sono queste. Queste sono le 6, l'esavalente, poi c'era l'MPR, antimorbillo, parotite, rosolia, aggiunto la varicella. Voi sapete che tutte queste possono portare a malattie, se si sviluppa, può portare a conseguenze drammatiche, e poi ci sono quelle gratuite, non obbligatorie. Guardiamo questa diapositiva e dopo ciascuno si pensa le cose proprie. Questa è i milioni di persone che sono vaccinati nel mondo. La pallina rossa è il totale delle segnalazioni di una sospetta reazione collaterale in uno che ha fatto il vaccino. Poi quando si va a vedere di questa totale delle reazioni avverse realmente correlate col vaccino, siamo allo 0,0015% di tutti i vaccinati. Questo dice la stessa cosa. Infinitamente più rari queste eventuali correlazioni, che sono minime, infinitamente più rari di quelli dei farmaci comunemente usati senza prensione e spesso non necessari. Uno prende per le statine che non occorrono, l'antibiotico che non occorre, cioè, qui che sono convalidato, possono dare effetti collaterali importanti, non ci si preoccupa dello 0,05 di possibile correlazione. Nessun decesso è stato documentato dopo vaccinazione. Queste sono, senza perdere tempo, sono delle cose, dei sintomi parainfluenzali, sostanzialmente febbre, pianto, irritabilità, che va via in pochi giorni. Questo lo saltiamo. Ci dimentichiamo dell'importanza, perché non vediamo più le conseguenze della mancata vaccinazione per la poliomielite o della cosiddetta paralisi infantile, che una volta lasciava sopravvivere solo se uno veniva messo dentro nel cosiddetto polmone d'acciaio. Immaginate la vita di questa ragazza giovane nel polmone d'acciaio fino a morire, poi non fino a guarire. Pensate a questa gnocchetta interessante, cosa ha comportato questa gamba, in cui deve aggiungere un cubo per non zoppicare vistosamente per la strada, perché è stata colpita da alcuni brividi. Dice, sempre in triestino rigoroso, non avrei mai pensato che siamo peso dei ceceni, perché se andiamo a vedere i casi di morbillo nel 2017, l'anno scorso, in Romania 5.562 casi, in Italia e Ucraina 4.760 vicini, poi tutto giù arriviamo alla Cecenia che ha 146 casi contro i nostri 4.700. A me scandalizza un po' questa cosa qua. Sono contento di stare, per quanto riguarda la vaccinazione, in Italia e Ucraina e non in Cecenia. Decida quello che vuole. Ricordiamoci comunque che se ti ammali puoi avere di morbillo, puoi avere un'encefalite un caso su 1.000, una polmonite una su 20, quindi molto, otite una su 10, morte una su 1.000, che non è proprio poco. Se ti vaccini hai una convulsione febbrile su 4.000, una piastrinopenia transitoria su 40.000. Uno sceglierà cosa vuole fare. Io non spingo mai. Il morbillo, ricordiamoci, che non è soltanto questo esantema che qualche volta deturpa fugacemente la faccia o il tronco. Andiamo avanti. Obbligatorietà o libera scelta. Si dovrebbe parlare per mezz'ora, vi ricordo che sono partito con un quarto d'ora di ritardo e me lo prendo. Libera scelta informata. Sarebbe tecnicamente preferibile, teoricamente preferibile. Uno ti spiega, tu capisci e decidi. L'obbligo è antipatico, però l'obbligo è stato già adottato per altre cose a beneficio della comunità. L'isolamento del paziente infetto, la quarantena nelle navi per 40 giorni prima che c'è. Abbiamo i semafori, sono fatti per impedire la libertà di ciascuno, sono fatti a vantaggio della comunità obbligando i soggetti. Ma quando sentiamo, oltre a queste cose vistose, differenze regionali in informati, poi informare significa informare a parole o sperando che la gente legga, ma la percentuale di lettori che leggono è bassa, la percentuale di lettori che leggono e capiscono è bassa, e non è che la gente si scomoda per sentire molte volte informazioni, ma si va in Rai, si va in televisione comunque. Red Ronnie, Rai 2 anni fa, diceva questo: demenziale vaccinare i bambini, quanti sono morti per i loro effetti collaterali? È una roba da carcere. Non ha avuto nessuna conseguenza. E chi era Ronnie per dare, per sancire così decisamente che i vaccini ammazzano? Però la gente, molto più la gente che ha sentito Red Ronnie che le raccomandazioni dell'Istituto Mario Negri che vi ho fatto vedere prima. In Israele la salute dei giovani è più importante che altrove, sono circondati da stati che vogliono farlo scomparire, sono molto attenti, e questo è un aspetto positivo e comprensibile, non mi piacciono altre cose, però sono stato attento alla salute soprattutto dei giovani che devono fare i militari, e anche i giovani, i meno giovani sono sempre militari. E allora le malattie, le epidemie sono particolarmente temibili. E allora con un accordo politicamente trasversale, e non un anno fa, al 22 novembre del 2018 alle ore 11 hanno fatto questa dichiarazione, questa imposizione. Con il voto favorevole trasversale di tutti i 113 deputati, multe per genitori Novax ed esclusione sia da scuola e dall'università dei non vaccinati, riduzione dei crediti fiscali e benefici della sicurezza sociale. Motivo ultimo scatenante, recente epidemia di morbillo, 753 casi con una morte di un bambino di 15 anni. Dove la vita è particolarmente importante anche per la difesa nazionale dello Stato, si va giù pesantemente in maniera assolutamente precisa. Poi c'è il problema ultimo, con cui finisco, dell'autocertificazione. Allora, l'autocertificazione è un segno di grande civiltà, io non sono un giurista come l'avvocato Lore, ma uno certifica, siamo un paese onesto, ti va a pagare le tasse? Sì, le ho pagate. Hai fatto? No. Ma noi siamo un popolo famoso per essere attendibile come autocertificazione? Credo che soprattutto da una certa latitudine in giù, ma anche in su, l'autocertificazione lascia molti dubbi, anche perché il controllo di quanto si è autocertificato è problematico, richiede del tempo, e nel frattempo tra l'accertamento se quello che hai autocertificato è giusto o no, in mezzo ci sono le conseguenze di chi ha fatto le cose. E vi faccio vedere questo piccolo passaggio vignettistico che farà sorridere, ma non ve lo faccio per farvi sorridere, ve lo faccio per dire quanto può essere il peso della certificazione nell'italioti. La differenza tra italiani ed europei. Autostrada. Parcheggio. Europa. Parcheggio Italia. Parcheggio 2. Attraversamento stradale, Europa, Italia, segnali stradali. Thank you. 6, 7 minuti, 8, 12. Posso saltare, romanticismo mitteleuropeo, questa è la mia classe ginnasiale quinta, io sono quello, sembra no, ma sono io questo, ho sempre creduto che i consigli siano preziosi sin dal ginnasio, quando tutti mi invidiavano per il ciuffo molto civettuolo. Dopo 4 anni ero così come sono adesso, quindi non c'è mai da fidarsi. Quindi ero convinto già ante litteram di questa bellissima di questo bellissimo aforisma di Francesco Petrarca: il saggio vuole consigli, lo stolto resta della sua opinione. Questo vale per i novax, vale per tutti quelli che hanno delle idee senza sapere. E allora uno chiede consigli, naturalmente chiede consigli a uno che ne sa di più, quindi la fonte che noi cerchiamo deve essere una fonte almeno onesta sotto il profilo concettuale. Grazie per l'attenzione, regalatelo questo libro per Natale e Capodanno e anche dopo. Tutti i diritti vanno a Save the Children. Questa fotografia è quella che mi ha veramente, ce n'è miliardi, dovremmo piangere tutto il giorno, non possiamo condividere la sofferenza ogni 5 minuti, ma quando ho visto questa fotografia qui sono rimasto veramente atterrito e anche questo con gli occhi sbarrati, no? Faccio una cosa, il libro costa 15 euro, io destino tutti i diritti, quel poco che è, li destino tutti a Save the Children, e vi faccio notare che questo costa 15 euro e la acqua de parfum J'adore della Dior per 150 cc costa 143,95 euro. Quindi, visto che qualche volta regaleremo il profumo alla nostra moglie, alla nostra amante, al marito, al posbarba, ricordiamoci che con 15 euro possiamo contribuire, anche se è una goccia nell'oceano, a far del bene. Per poco che sia, ci mettiamo almeno un pochino a collaborare a questa filosofia. Vi ringrazio.